Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici? Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Malattia, tu fai una domanda e poi parli sopra a quello che dovrebbe dare una risposta. Non è che conduci, tu dirigi, cioè dirigi il traffico. Sai che dici proprio delle banalità, ti giuro, ma veramente ti stai santecentizzando. Ah, ma questa era la Parietti, quella che diceva che il modello di integrazione era Ibiza, perché a Ibiza, secondo lei, dove lei vive, a Ibiza, ricordatevi questa cosa, il modello di integrazione è l'isola di Ibiza, dove... Secondo la signora Parietti, i Rom vivono straordinariamente bene insieme agli spagnoli, i gitani, e gli unici a rubare sono gli italiani. Intanto in Ungheria, caro Parenzo, viene eretto, o almeno annunciato. Però lo faranno. Un muro anti-immigrati al confine con la Serbia, lungo 175 chilometri e alto 4 metri, con il filo spinato sopra. Capirai. Il governo di destra ungherese. Appunto. Qual è il problema? Non ho capito. Io sono molto invidioso dell'Ungheria, che si fa i cazzi suoi e che decide autonomamente di mettere, dove può ovviamente, un bel muro da cui non si passa. È una bella soluzione. Ma perché? Che soluzione? È una soluzione di un paese sovrano che decide di fare come vuole. Non ho capito qual è il problema. È una bella soluzione. È una che è un paese intelligente. No. È arrivato lui a decidere. E cominciassero ad arrivare le telefonate, cui dicono anche in Israele c'è il muro, perché non c'entra assolutamente niente, nulla, non mischiate le carte. Invece l'Inghilterra se ne fotte di accogliere i migranti, immigrati o clandestini, profughi, chiamateli come diavolo volete, e dice no, mettiamo solo soldi, vi aiutiamo, ma qui Nisba, non li vogliamo. Piccola polemica con il presidente del Consiglio, il quale ha attaccato, a me non frega niente di Marino, per me può dimettersi domani mattina, si può andare a voto anche ieri, non sono un fan di Ignazio Marino, assolutamente no, non me ne frega nulla di chi governa Roma, che considero una città totalmente ingovernabile, chiunque ci sia al Campidoglio. Beh, negli anni passati non lo è stato. Ingovernabile, totale. I problemi di fondo, uno può fare il sindaco più o meno bene, organizzare le stati romane, non rubare, stare attento a queste cose. Una città però pulita, anche semplicemente. Totalmente ingovernabile. E Veltroni, totalmente, era una città pulita. Adesso è arrivato, perché invece con Alemano è diventata sporca. Sporca. Con Alemano sporca. La teoria di Parenzo è con Veltroni e Rutelli pulita, con Alemano sporca. Non è teoria. Non è di parte. No. I problemi di fondo di Roma non sono cambiati, questa è la realtà, negli ultimi 20 anni, 30 anni non sono cambiati, né con l'uno né con i problemi di fondo, parcheggi, metropolitane, trasporti, sporcizia, non cambiati. Comunque, in ogni caso, il presidente del Consiglio non eletto attacca il sindaco di Roma eletto, e uno si incazza, amici miei, uno si incazza, perché come fai ad attaccare frontalmente il primo cittadino di Roma da presidente del Consiglio? Non c'era mai stata una situazione di questo tipo, non si è mai verificata. E da segretario del PD poi anche. Ma sì, ma segretario del PD, quello che vuole. I suoi, solo perché in questo momento è in difficoltà, lui gli spara contro. Ma è una cosa pazzesca, pazzesca, cosa pazzesca, ridicola. Porta a porta ieri sera. La vogliamo smettere di stare a discutere dalla mattina alla sera di questioni che interessano gli addetti ai lavori? Chi è in grado di governare, governi. Se non è in grado di governare, si quali va a casa. Sono i termini per capire se questa, quali sono i tempi per capire se questa giunta è in grado di governare la Città? Deciderà il PD romano insieme alla coalizione. Dice Marino si deve guardare allo specchio e decidere cosa fare, ma insomma, ragazzi, ma vi rendete conto? Adesso il presidente del consiglio non si può permettere pure di dire chi governa Roma, chi non governa. Renzi deve stare un po' calmo. Cioè, signor Marino, io non ho grandi simpatie, ripeto, ma è stato eletto dagli italiani. Il signor Renzi non è stato eletto dagli italiani, bensì da un complotto di palazzo, diciamo la verità. Poi sì, ha vinto le primarie, è un complotto di palazzo, come lo chiami? C'è un complotto regole democratiche fanno sì che lui è stato votato dal Parlamento. Non ho detto che c'era Nicoltelli, ho detto semplicemente che a un certo punto c'era un complotto. C'era un presidente, perché il complotto non fa parte della politica, il complotto le trame fanno parte della politica, un complotto di palazzo che ha defenestrato Letta e poi il Parlamento ha votato la fiducia, poi il Partito Democratico ha votato la fiducia a Renzi. Vuoi che te lo spiego meglio, che te lo ma non è quello il che punto, te lo infiocchetto così? No, allora, ma non è stato eletto quello. Marino è stato eletto, punto. Roma sì, Roma no. Allora, se il sindaco e l'amministrazione, che hanno dei problemi oggettivi, poveretti, perché lì ci sono tre che sono gli arresti, se non sbaglio, quanti sono? Tre o quattro? Non ricordo, quindi hanno un po' di problemi oggettivi, si guardino allo specchio, decidano che cosa fare, il governo è pronto a fare la storia. Oh, c'è il giubileo quest'anno Roma, c'è tutto il mondo che la guarda. Va bene, persino Orfini, che è il presidente del partito, dice che Marino è legittimato a governare, che Renzi sbaglia e che Renzi sbaglia. Ragazzi, altra polemica del giorno, Parenzo, è quella di Salvini contro il Papa. È straordinario, Salvini si mette contro il Papa. Proprio al bar, anzi neanche al bar. No, che c'entra il bar in questo caso? Ero al bar prima, quindi. Allora, il Papa dice come battuta quello che ha detto Salvini. Ma no, ma invece lui la prende seriamente. Dice che il Papa che cosa ha detto? Che bisogna perdonare le persone che chiudono la porta. Vabbè, le cose che può dire un Papa, insomma, per me banalità colossali. Però bisogna perdonare le persone e le istituzioni che chiudono la porta. È il vero Papa questo qua, non è quello finto. Vi invito tutti a chiedere perdono per le persone e le istituzioni che chiudono la porta a questa città. Salvini risponde al Papa. Meraviglioso. Incontrerò un gruppo di profughi a Torino, Papa Francesco. Sì, con l'arcivescovo. Mi piaceva tanto all'inizio, non so a te, mi piaceva tanto. Adesso, Papa Francesco, chiediamo perdono per chi chiude la porta ai rifugiati. Quanti ce ne sono in Vaticano i rifugiati? I rifugiati sono un quarto alla fin fine di quelli che arrivano, quindi lo diciamo con tutto rispetto a Papa Francesco, non abbiamo bisogno di essere perdonati, pecchiamo come tutti gli altri esseri umani, però ci sentiamo assolutamente buoni e generosi più di altri pseudo cattolici. Oh, buon anno, a un certo punto ieri sera, non so dove, in quale trasmissione, ha detto ad un rappresentante somala, senti che frase ha detto sulla colonizzazione, stupendo, senti. Detto questo, la signora che arriva dal continente africano, dalla quando Somalia, qua c'era il Rinascimento, scusi, loro raccoglievano ancora le noci Somalia, di cocco, non ci dia lezioni di civiltà. Somalia, non le prendiamo. Somalia. Quando da noi c'era il Rinascimento, da voi raccoglievate le noci di cocco. Bellissimo. È un circo pazzesco. È un razzista. È un circo pazzesco con Grillo, che oggi ha detto una frase, ha pubblicato una frase su Twitter, che poi ha tolto. Secondo me anche che Roma è sommersa, cioè se continuerà così verrà sommersa da topi e da clandestini, mettendo insieme topi e clandestini. Poi si è corretto, in realtà mettendo un errore, però insomma dai. Città sommersa da topi e clandestini, Giampiero Mughini è con noi, Giampiero. Eccoci carissimi. Allora, che dici su Grillo? Sei incazzato? Beh, io sai, da Grillo non mi aspetto mai più che questo. Non c'è una volta che Grillo mi abbia deluso, diciamo così. Questo è veramente colossale, perché lui come ha fatto Baudelaire nella prima edizione del suo libro, poi si è corretto, sì, capisci? Sì, sì. Si è corretto e ha detto che non voleva dire topi e clandestini, ma topi e campi di clandestini. Sì, quindi sì, riesce a sbagliare anche nello scrivere tre righe, capisci? Lui non credo che sia in grado di scriverne più di tre, ma persino nello scriverne tre, nello schiamazzare tre righe, sbaglia non la consecutio, ma proprio la sostanza del ragionamento. Senti, ma ripeto, me Grillo non mi ha mai deluso. Io da Grillo mi aspetto solo questo. Cioè, quando uno scrive elezioni per Roma il primo possibile, vabbè, questa qua è una posizione politica, no? È una posizione politica di un politicante che aspetta l'occasione buona. Esatto. Non è mica l'opinione di un pensatore, eccetera. È un politicante, un partitante che spera che questa è l'occasione buona. Prima che la città aggiunga, venga sommersa dai topi, dalla spazzatura e dai clandestini. È un argomento veramente di una finezza, di una raffinatezza, di una pensosità. Ma questo è Grillo. Lo è sempre stato dal primo minuto all'ultimo. Pensa, pensa Giampiero, che la città dove abiti, io per fortuna non ci abito, devo dire la verità, con tutti i problemi che ha, pur essendo straordinaria naturalmente, la città dove abiti potrebbe avere come sindaco uno come Di Battista, per esempio, no? Un grillino. La democrazia prevede queste possibilità. La democrazia nel 1933, il capo del governo andò Hitler. Ma in che senso, scusami? La democrazia, purtroppo, il voto quantitativo, certo, potrebbe venire... Un grillino. Come? Un grillino potrebbe... Io penso che i grillini siano i favoriti in questa situazione, ma ho sempre pensato che l'intera politica italiana stava scrivendo una sceneggiatura per un film che avrebbe avuto prima o poi come protagonisti i grillini. Perché quando succede quello che è successo qui adesso a Roma, poi naturalmente... Senti, il colloquio tra Salvini e il Papa, che ne pensi? Manca solo Dio? Io però devo dire che questa volta Salvini non è andato fuori dal seminato. Il Papa parla da Papa. Tu dici, in effetti sono delle ovvietà quelle che dice, totale, dice da Papa, non c'è niente di male, eccetera eccetera. Salvini, che non è Papa, però è uomo politico, è uomo di mass media, gli ha risposto con il suo linguaggio, che non era un linguaggio offensivo. No, ha detto in Vaticano non ce li avete. No, ma se li prenda è come quelli che dicono prendeteveli a casa vostra, no? Che è un argomento idiota, proprio stupido. Lui parla, ripeto, anche lui è un politicante, anche lui sta raccogliendo i voti. Qui nessuno parla in nome dell'intelligenza dei fatti, della complessità del dramma, della responsabilità di una situazione che ogni giorno si fa più angustosa. Qui ognuno raccoglie voti, no? Porta acqua al proprio. Ma tu non hai paura della scabbia? Ma che scabbia? La scabbia, non, certo che ho paura della scabbia, però onestamente... Non ti sembra questo dramma? Quei signori lì sugli scogli, eccetera, eccetera, insomma, poveracci, hanno anche la scabbia, cosa li vuoi, uccidere? Ma io ho più paura dell'idiozia che della scabbia, guarda. Gli idioti sono... L'idiozia è peggio della scabbia, su questo non L'idiozia è peggio della scabbia. Ma certo. L'idiozia è il male, assolutamente, questo pensiero... Però Giampiero, per te sono idioti quasi tutti, diciamo la verità. Sono idioti in tanti, Ha ragione. Ma soprattutto, Giuseppe, sono idioti tutti quelli che scelgono questo momento, ripeto, drammaticissimo, per alzare i toni. Certo. Ma ho capito, un conduttore radiofonico di cui non ricordo il nome, che ha certe idee, sei un amico di Hitler, ma è un alzare i toni. Non si può ragionare se all'inizio della discussione tu dici sei amico di Hitler. Ma sì, ma basta dire... bene, ti sta parlando uno che ieri nel duetto tra te e la libera pensatrice Alba Parietti, ero più d'accordo con la Parietti. No, ma certo, ma io sono per l'Ungheria che mette il muro, io sono per sparare ai barconi. Anche tu, Peppino, stai alzando i toni. Ma non sto alzando i toni, essere favorevole a una cosa non significa essere favorevole ad affondare i barconi quando partono. Male, ma perché dovete dire che gli altri sono razzisti se non la pensano come voi? Ma quale buon senso? No, Parenzo. Ma pensa? Chi è che ha detto questo? Ma io non penso assolutamente. Fermi tutti questo. Che c'è il traffico, poi torno con Giampiero. Il traffico è La Zanzara. Mamma mia, che orrori, che orrori. Allora, siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci con Giampiero Mughini in apertura della Zanzara. Caro Giampiero, però io per rallegrarti la giornata devo raccontarti pure quello che succede alla tua Juventus, perché uno dei giocatori più significativi in Cile, il signor Vidal, ha fatto un incidente ubriaco con la sua Ferrari, è stato sospeso per quello che riguarda la patente per 120 giorni, dovrà firmare ogni settimana al consolato cileno. Un dramma assoluto, caro Giampiero, e pare che gli sia andata ancora. Ma una cosa molto triste per chi ha come me l'idea che un atleta debba essere innanzitutto un uomo, cioè un uomo nella pienezza delle sue ubriaco, doti, la Ferrari della sua intelligenza, della sua responsabilità. Vidal è stato sul campo da gioco per parecchi anni qui in Italia, un guerriero formidabile, all'aria di essere un uomo da quattro soldi, perché uno che con la macchinona, vabbè, ma anche se era una macchina più piccola, eccetera, vabbè, va a sbattere, c'è la moglie lì dentro, eccetera, ubriaco, è un uomo da quattro soldi. Ubriaco, il ritiro con la nazionale, ubriaco, eccetera. Non è che ha avuto un impatto. Ma sei già a lutto per Tevez? No. Beh, sai, le cose finiscono tutte, Giuseppe, e se lui non ha più voglia, cosa fai? Mica lo puoi costringere, ma le cose finiscono tutte, sai, finito. Dici la Juve resta, la Juve resta. Ci sarà un altro numero 10, dai. Ma ci saranno, c'è certamente, il problema infatti di una grande squadra è non rimanere abbracciata ad una generazione di calciatori o di campioni, e di trovarne, di inventarne altri. Per esempio, per dire di una squadra che io ho immensamente ammirato, è come se il Milan fosse rimasto abbracciato ad una squadra che era irripetibile. Senti, non ho capito, mi hai detto che sei stato a Budapest da qualche giorno, non è che sei andato su qualche set porno, no? E che ne so, a Budapest, la patria del porno, magari sei andato là. Sì, ma purtroppo Rocco, il mio amico Rocco Siffredi, non c'era a Budapest in quei giorni. Ah, l'hai cercato? E allora, no, lo avrei cercato, ma sapevo che non c'era, quindi non l'ho cercato. Non lo avrei cercato per andare sui set porno. Io sono andato su un set porno a Roma per un film diretto da lui una ventina d'anni fa, era noiosissimo. Ma Budapest però è una città, ragazzi. Ma non ho capito, stanno mettendo da che punto di vista una città? Bellissima. Beh, è una città che ti entra nell'anima e te la devasta. Vabbè, d'accordo. Però stanno mettendo un bel muro là, Stanno mettendo il muro un bel muro. Non lo hanno ancora messo. Vogliono mettere un bel muro. Che anche lui è un politicante. Pure lui. Ha promesso di metterlo per raccogliere anche lui i voti. Ed è chiaro che in questo momento la difesa psicotica dal pericolo degli immigranti, pericolo che esiste, vada bene, perché lì in Ungheria però è tutto psicotico, 50.000 l'anno scorso e altrettanti ne stanno arrivando quest'anno, e allora se devi raccogliere voti, quella è un'arma, certo, formidabile. Ma hai mai mangiato la Nutella? No, io la Nutella non sapevo neppure cosa fosse prima del film di Moretti. Addirittura. Io non amo quei sapori lì. Ho capito. Qui c'è la... Cosa mi vuoi portare sulla polemica se sì o no? No, contro, ma i francesi. Ma secondo le Royale poi si è corretta, che ha detto bisogna salvare il pianeta, non mangiare la Nutella, una cosa patetica, ma ridicola. Sai, dai. Ognuno, come abbiamo detto prima, io non so se la Nutella effettivamente minacci il pianeta, quindi non so dirti. Comunque io voglio dire, da 1 a 10 quanto ti fa schifo Grillo? Questo per capire. Beh, mi fa schifo, è una brutta espressione, io non amo le brutte espressioni. È un uomo nei cui confronti il mio disinteresse intellettuale da zero il minimo, disinteresse zero il minimo significa che sei molto interessato a una persona, a 100 il massimo del disinteresse zero intellettuale, io direi 200. Vabbè, è un ragazzi, uomo che per me è come se non esiste. Vabbè, ho capito, però qui si prendono il 20%, ancora possono governare tutto, pure il paese addirittura. Io impedisco a qualcuno di votare Grillo. Stasera andrò a cena con un amico mio, il quale è stato ed è un mio grande amico, sodale, eccetera, il quale alle penultime elezioni ha votato Grillo. E per me è una cosa così pazzesca. Inspiegabile. Giornale radio. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da Interplanet.it, servizi innovativi di telecomunicazioni nel Veneto. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta La Zanzara. Allora, detto Parenzo che oggi credo che abbiamo toccato un nuovo record, perché sono le 19.20, siamo andati via dall'onda alle 18.55. 19.21, quasi. Abbiamo toccato un nuovo record assoluto, credo sia 26 minuti. Tra un pezzo di trasmissione e un altro, 26 minuti, e non dico nient'altro, 26 minuti, nuovo record assoluto, credo, di qualsiasi trasmissione non italiana ma mondiale. Cornute che non sono out, questi sono dei cornuti. Bravo. Detto questo, di cui non è arrivata un'immigrata a Milano, che è un'immigrata, come direbbe Calderoli, una negra è arrivata. Non dire cazzate, dai, su, signora, non dire Michelle, cazzate. Michelle Obama, vi voglio segnalare che in Austria, notizia di qualche giorno fa che abbiamo trascurato sbagliando, in un locale a Salisburgo il Pascià offriranno sesso gratis contro le troppe tasse. Dunque, va bene mettere i bordelli per me in tutta Italia, però ragazzi, non è che possiamo alzare le tasse per i bordelli, no? Ingresso gratis e bevande gratis. E anche sesso gratis. Pascià, Salisburgo, segnate. Voi maiali che siete in ascolto. In senso buono, Segnato anche che il signor George Michael è di nuovo in clinica per abuso di stupefacenti. E si fumava 25 spinelli al giorno. 25 spinelli. Noi siamo a favore della legalizzazione, per carità, però ragazzi, 25 spinelli tantini, al giorno. Tantini. Un po' su. Tantini. Uno all'ora. Più di uno all'ora. Io direi di passare agli ascoltatori, perché non è, altrimenti che cazzo facciamo, dai. Nicola da Padova, dai, forza. Pronto, ciao Cruciani. Dimmi. Ascolta, ma prima quando parlavi con Mughini hai detto perché le barche degli immigrati bisogna affondarle appena partono. È una cazzata, perché come fai a affondare le barche? È una soluzione idiota, cioè non è possibile. Poi se sono appena partite sono piene di gente, tra l'altro. Prima quindi, di partire, prima sì, di vabbè, partire. Prima, ma prima come di fai? Partire. È una, è una cazzata, lo sai anche tu. È una cazzata, bene, sempre. Prenditela con il signor Luttwak, con lo stesso Renzi che l'aveva proposto due mesi fa, un mese e mezzo fa. Una cazzata, non è che Renzi è immune dal dire cazzate. No, perché appunto, ecco. Ascolta, allora, poi tutto quello che non è l'accoglienza per tutti è una cazzata. Allora fate arrivare tutti. Ma no, ma si fate tratta di fare, arrivare di fare tutti. Si tratta di fare più cose, accordi con gli... ma qualcuno lo dice, mica solo io, qualche persona lo dice, sai, fare gli accordi internazionali, intanto fare l'accoglienza, accoglienza, accordi internazionali costruita. Certo, belle parole. Con persone, Nicola, per vai. Bene che lo fanno. Nicola, vai. Allora, poi volevo dire, riguardo ad esempio a ieri, tu dici che nella tua trasmissione vuoi sempre sangue e merda, giusto? Io non ho detto poi, questo, ma comunque... Beh, lo dici spesso, adesso cosa dici, che non è vero? Però, ad esempio, ieri, hai capito, c'è stato quel Gino con il quale non ero completamente d'accordo, ce l'aveva quei gay, non sì. so... E a un certo punto nel suo discorso ha detto che tua madre, insomma, ha offeso tua madre, ha detto che tua madre è una troia, così. Allora tu subito, no, devi chiedere scusa alla mia mamma, cioè mi hai deluso veramente, cioè prima vuoi sangue e merda, poi se merda e merda, cioè quella che non puzza troppo, cioè se richiedi questo ti può capitare, hai capito? Ciao Nicola, hai detto ciao, la cazzata ciao. Del giorno, 19.24, sì, vai. Sì, ciao. Andrea ciao. Da Firenze, dai, forza. Pronto? Ma poi non me la sono presa per niente, ho fatto intervenire mia madre, figurati se me la sono presa, no? Vai, Andrea, dimmi. Eccomi qua. Io sono il quinto stronzo, perché sì. ieri Parenza aveva detto che ce n'erano quattro, no? Sì. E io sono il quinto. Beh, no, sì. il primo perché... di oggi magari. No, no, perché te quando esci poi dalla demagogia ci devi anche spiegare come risolvi i tuoi problemi, perché te in linea teorica l'ha su detto tutto degli accordi, l'accoglienza, ma credo che di che, ma credo fa, che già non si stia facendo nemmeno con se stesso, ma già te si sta te, facendo, ti guardi allo specchio e litighi con te stesso, guarda, ma che cosa a 20 miglia sono 30 persone, il famoso caso 20 miglia 30 persone, sì, 30 più persone. Ci metti quei 30, non c'è nessuna che tutte invasione, nessuna piazza Santissima Annunziata che aspettano da andare a fare l'accattonaggio, più ci metti gli altri migliaia che sono tutti qua. Finita l'emergenza, chi glielo dà da mangiare a sta gente? con che prospettive le fai infatti, venire? Guarda, fai venire questi tutta qui l'Africa, non vogliono rimanere idiota. Qui, eh? Questi non hanno nessun interesse né intenzione di rimanere qui. Si tratta di gestire l'emergenza, cioè l'arrivo Andrea, di queste poi? Persone sì, fine, con la Croce Rossa, con le cooperative scelta, per bene. Secondo voi tutti qua il problema è risolto? Di che ma chi andando? Ha detto tutti qua? Ma chi ha mai detto tutti qua? Vabbè, Andrea, Nico da Milano, vai, Nico. Nico? Sì, ciao, sì, buonasera, buonasera. Sì, sto ascoltando un po' tutte queste cose qui. Io penso che il problema è estremamente complicato. Sì, che non si può né fare della cosa, sì, bombardiamo, rifiutiamo, né fare. Il problema è estremamente complicato. Però io mi chiedo, ma è possibile che si vive meglio in un mondo dove comunque si vogliono creare barriere, comunque dove si vuole creare, dove si vogliono mettere, cioè tu sei veramente più contento, Giuseppe, di vivere in un mondo dove cazzo il tuo vicino mette un muro di 4 metri? Ma dimmelo se veramente la pensi così. Assolutamente sì, dici, qual è il problema? Io vivo in un, per me il mondo perfetto è che in Svizzera mettono un muro di 4 metri, a 20 miglia un altro muro di 4 metri, giù in Sicilia un altro muro. Cioè, di 4 mesi. Apriamo tutto, ma che perfetto? Cazzo ci frega? Ma apriamo l'Ungheria tutto in Europa, ma che no? Ci importa? Apriamo tutto, ma che ci frega? Ma accogliamo tutti, Giuseppe, senza regole, tutti senza regole, senza vedere di chi abbiamo bisogno per lavorare e chi non abbiamo bisogno. Ascolta, accogliamo, ma siccome sì, ci sono le guerre, il terzo mondo, i poveri, i migranti, tutti qua, tutti accogliamoli e poi vediamo. Ma nessuno ha detto questo, ma lo dite voi ogni giorno. Non ci vogliono venire. A ridaglie con sta cosa, non ci voglio venire. Ma allora dove stanno questi 50.000 che sono arrivati? Senza questi 50.000 che sono arrivati, sarebbe diversa la situazione per quelli che non hanno lavoro in Italia. Ma se non volevo, io non dico questo, perché non ho mai fatto un discorso del genere. Ma cazzo, se io non ho, me è tutto io non ho mai fatto un discorso del genere. No, ma molti idioti che chiamano sostengono che gli tolgono il lavoro. Sono i tuoi ascoltatori, abbi rispetto. Ma a me non me ne frega niente. Gabriele, se uno è un idiota, Gabriele, è un'idea idiota. Ma non mi interessa niente. Non ha chiamato nessuno. Ma la vuoi finire con questo discorso? Non ha chiamato nessuno, Gabriele. Aspetta, da Roma è lunga la lista. Sai dire solo questo, sai dire Gabriele no, da Roma. Posso dire anche solo altro. Questo. Per ora dico solo questo, solo questo. Volontariamente. Nient'altro. Pronto? Gabriele, vai. Pronto, mi sente? Sì, dimmi. Luciani, buonasera. Dimmi. Guardi, no, ho finito di ascoltare il suo intervento. Era la stessa cosa che volevo dire io, quindi è inutile che intervengo. Era solo per dire che in tutto questo tempo che sento la zanzara non è intervenuto mai nessuno dicendo. Sì. Dicendo che io non è che sono razzista, nessuno è razzista in Italia. Nessuno. Tutti vogliono che se gli immigrati, come dicono loro, o i clandestini, sì, si attengono alle regole. Nessuno dice niente. Io non sono razzista, ma devo attenersi alle regole. Vabbè, ma quello tutti siccome, regole, quello siccome tutti. Però il mondo è fatto di gente strana, che sentivo pure l'ultimo ascoltatore che. Giustamente, non so come. No, ma siccome altri paesi adottano dei provvedimenti durissimi contro l'immigrazione clandestina, durissimi, sono tutti stronzi, noi invece non adottiamo queste misure. Noi. Gli stronzi siamo noi invece. Ma vabbè, incredibile, guarda, incredibile. Altri paesi, vabbè, però è diverso quel paese lì, secondo me la Francia, Australia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Gran Bretagna, tutti stronzi secondo Parenzo. Perché secondo Parenzo la Francia sbaglia? Secondo me la Francia sbaglia, no, perché li doveva far entrare la Francia. Intanto la questione è una questione europea, non è una questione solo italiana. Quindi, se sei in Europa, condividi tutti i problemi che ci sono e non ti arrocchi a difendere per questioni elettorali come ha fatto Hollande, che anche se è di sinistra, in questo caso ha dimostrato di essere un cretino. Dobbiamo dare la linea alla borsa, dai, forza. Brucida. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. La Zanzara. Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Allora ragazzi, io vi dico come la penso sulla questione immigrazione, al di là poi dei tecnicismi, gli accordi che pure ovviamente sono importanti, anche se non si possono fare quando non c'è uno Stato dall'altra appunto, parte, no? Esattamente. Allora, la gente è incazzata e Renzi sta perdendo consenso su questa vicenda dell'immigrazione, come dimostrano le ultime elezioni, per un motivo molto molto semplice, perché come al solito l'Italia non dimostra di essere uno Stato. veloce, la gente vuole che l'Italia, al di là delle fumisterie europee, le burocrazie di cui non fotte un cazzo a nessuno, l'Italia deve dimostrare di fronte ai cittadini di essere uno Stato. Allora, blocchi navali, non dico che sia la soluzione di tutto, la panacea di tutti i modi. Saper accogliere, aspetta, no? Blocchi, ma che ne fotte la gente? Blocchi di saper organizzare. Ma tu perché devi fomentare azioni, la gente? Ma una per la gente, niente. Ma la gente azioni, gli si spiega la gente. Azioni concrete, reali, affondare magari i barconi prima che partano, che un'isola dove raccogliere, un posto dove raccogliere gli immigrati. Anche, si guarda che ieri quando hanno chiesto a Pisapia, ieri a 8:30 questa cosa qui, non è che ha detto no, una follia razzista, un'isola, un posto dove mettere le persone, accoglierle, no, distinguere, no, non ha detto lui, distinguere quelli che hanno diritto a restare e quelli che non hanno diritto. È quello che si sta facendo. In tempi rapidi in Italia questo non avviene e i rimpatri sono pochissimi. Dunque la gente, a parte che i rimpatri costano, ma non mi interessa, visto, la no? gente vuole che si paghi per queste cose. Spiega alle persone qua. I rimpatri costano tre volte il biglietto di un qualsiasi la passeggero. La gente che vaga per tre il paese volte, altro che i 35 euro al giorno. La gente che vaga per il paese è insopportabile. Ma chi vaga, che stanno lì fermi sui biscogli? Allora, non vaga nessuno. Hai ragione, non vaga nessuno. Non vaga. Marco il neurone, l'unico neurone della Lega vaga. Quella è l'unica roba. Proposito, sentiamo Salvini a Radio Padania oggi. Sentiamo Salvini. Che miseria, ladro. Get your motor running. Head out on the highway. Cosa bisogna fare? Andare lì, assisterli, dargli da bere, ma lasciarli lì. Quello che ha fatto l'Australia. E che vuol dire? Li lasciamo lì qua? Quello che ha fatto l'Australia. Un mese, due mesi, che facciamo? Mannoni, quello che ha fatto l'Australia. Che ha fatto? Quello che fa il mondo civile. Il mondo civile non piazza negli alberghi con 4 milioni di italiani disoccupati, migliaia di clandestini. Profughi, un par di palle, sono migliaia di clandestini. Questa era Linea Notte. Con Renzi che poi va da Vespa, porta a porta, fa il fenomeno, sorride, dice ma sì, cosa vuoi che sia, la scabbia la curi con una pomata. Questo è veramente pericoloso. I milanesi devono portare i viveri a Pontida, non in stazione. Però ripeto, sono bellissime le scene dei milanesi che portano vestiti o latte agli immigrati in stazione. Domenica abbiamo l'occasione di avere almeno 50.000 persone a Pontida, ciascuno di queste 50.000 persone porta un pacchetto di riso, un paio di scarpine per bambini, aiutiamo 50.000 italiani o figli di italiani che non dormono in stazione ma che hanno bisogno di altrettanto aiuto. Renzi è un po' salviniano ogni tanto, perché dice per esempio vado in Etiopia, senti che dice. E io il 13 luglio sarò a Addis Abeba per dire che cosa facciamo noi sulla cooperazione internazionale, perché se vuoi risolvere il problema devi lasciarli lì. Cioè, poi puoi fare un tweet e fare la polemica. Se vuoi davvero risolvere il problema, devi andare in Africa a risolvere il problema. E ci vogliono mesi. Devi lasciarli lì, che è più o meno quello che dice la Lega. Ma lui è Presidente del Consiglio, quindi ha il potere di stipulare accordi, no? Sì, sì, devi lasciarli lì. No, ma è chiaro che l'idea è quello di creare delle strutture per cui lì posso. Con Gheddafi fu così, fecero un accordo con Gheddafi. E stavano là. Va bene, andiamo a Carbonia. Enzo, uso un vai. Linguaggio consono, adesso. Perché mi hanno segnato che c'è un bambino in macchina, Vabbè, pazienza. C'è il giovane Andrea che sta andando a una cena di classe. Enzo Carbonia, me ne fotto. Diciamo parolacce per 10 minuti. Me ne fotto, Enzo. Andrea, ma come? Me ne fotto totalmente. Ma c'è un bambino all'ascolto. Sta andando alla cena di classe, Andrea, usiamo un linguaggio. Ce ne saranno tanti. Usiamo un linguaggio consono. Uso il linguaggio che mi viene spontaneo. Enzo Carbonia. Ciao Andrea. Io seguo da tanti anni Radio 24 e la seguo con interesse, perché vabbè, dai Enzo, forza. Quello che mi ha dato fastidio è questa ridondanza del ritenere che Renzi non è stato eletto. Renzi non è come tutti gli altri presidenti del Consiglio. Ha mai assistito Italia, ad elezioni dove Renzi era candidato presidente del Consiglio? Lei? Tecnicamente no. È così la realtà. Poi in un sistema parlamentare. Ma non ho mai utilizzato la parola abusivo io. Non ho detto demagogicamente che siccome, Renzi è fuori dalla legge. Siccome lui si è spesso, no, ha spesso utilizzato la questione del consenso, delle primarie, adesso un po' le rinnega le primarie. Beh, va bene, le primarie. Tecnicamente Renzi è il frutto di una guerra all'interno del PD che a un certo punto ha defenestrato Letta per mettere Renzi. È chiaro che ha avuto la fiducia della Camera e del Senato, altrimenti non potrebbe governare. Certo, come è successo quando Veltroni ha sostituito l'onorevole Prodi. Nel senso, una volta che uno è segretario. Veltroni non ha sostituito nessun Prodi. Comunque, vabbè, dai. Volevo soltanto dire che c'è questa forma quasi di disinformazione nei confronti. Qualsiasi giornale, lo stesso Berlusconi, non è stato eletto dal popolo. La realtà è che l'ultimo governo eletto è stato quello di Berlusconi, c'è poco da fare. Dopodiché sono succeduti i governi, che c'è stato? Monti. Ma io ribadisco nessuno di questi ha fatto una competizione. Sì, ma è vero che non c'è l'elezione diretta. Io ho fatto una polemica con Renzi semplicemente per dire che almeno Marino si è presentato alle elezioni di Roma, prima ha fatto le primarie, ed è stato eletto sindaco scelto dai cittadini romani. Certo. Renzi non ha fatto nessuna competizione politica nazionale per essere lì a Palazzo Chigi. Questa è una realtà, cioè non c'è poco da fare. Marino è stato eletto, Renzi no, c'è poco da fare, è così. Dopodiché non ho detto che Renzi è un tagliagole. Però ha la stessa legittimità, questo. Ma io non ho detto la legittimità democratica, ecco. se uno va a vedere. No, però hanno la stessa legittimità, perché voglio dire, non sto dicendo che Renzi è un abusivo ed è lì. Renzi ha detto una sciocchezza, semmai, perché da segretario del partito, quindi da capo di Marino, se lo vuole far dimettere, gli dica il PD non sei più rappresentativo per noi, te ne lo sfiduciassero. Se fosse, ma non è per fare il precisino, ma perché è così, lo sfiduciasse politicamente, visto che è il segretario del partito. Dal punto di vista del presidente del consiglio, che è c'è zec, come direbbe Di Pietro, cioè il presidente del consiglio non si è mai visto che critica. Marco da Prato, sindaco della città, dimettiti. Marco, pronto, mi senti, Giuseppe? Dimmi. Allora, voglio dire due cose. La prima a Davide. Allora, in un contesto in cui l'Europa se ne sta sbattendo i coglioni di questi immigrati, ieri l'altro veniva su con la storia, ma anche traduttore, per parlare tutto quanto. Ora, nel si può trovare quello sull'uovo, però ora in un contesto così sorvoliamo su questi dettagli, no? Già mi sembra di fare il massimo, giusto, Davide? A 20 miglia, ma di che parliamo? Dai, come no? Vero, no? Dappertutto deve essere una zona di crisi. Sì. I paghi dei mediatori culturali. Come no? È un lavoro, darebbe lavoro a un sacco di giovani, peraltro. Vai, Marco. Laureati in psicologia. Siccome in Europa fanno gli stronzi, facciamo anche noi gli stronzi. Allora, io ho la soluzione per eliminare questi immigrati alla stazione. Soluzione semplicissima. Cioè, eliminare, spostarli, ti piace di più. Allora, si mettono tutti in albergo una bella notte, li ripuliamo, regaliamo un bel vestitino, una bella cravatta, una bella valigetta, e li mettiamo sui treni diretti a Berlino, diretti a Parigi, tipo 5-6 ogni treno, in modo tale che arrivino e nessuno se ne accorge, e intanto c'è... Come dire, lì. Lei dice: vestiamoli bene e distribuiamoli in tutto il mondo. Chi se ne accorge? Uno con la cravatta in un treno, chi gli dice qualcosa? Ma infatti sarebbe da fare, se questi qua se ne vogliono andare, sarebbe da fare per fottere gli altri, certo. Come fanno gli soldi? Facciamolo anche noi in silenzio, piano piano, anche del tipo, anche 100 al giorno fra. Anche Parigi, fra Berlino, fra tutta l'Europa, non se ne accorge nessuno. Sono in quattro paesi, se li pippano come se ce l'abbiamo pippati noi. Giusto? Ciao, Diop, Torino, vai. Marco Diop da Prato. Vabbè. Vai, Diop. Diop, sì, Diop. Vai, dimmi. Sì, niente, Cruciani, io volevo intervenire ieri, però non avete fatto il tempo. Vabbè, uguale, dai, da dove vieni? Dove chiami? Ok, dove chiami? Torino sto chiamando. Di che nazionalità sei? Io vengo dall'Africa, io sono senegalese. Sei senegalese, allora dimmi. Sì, voglio solo dire una cosa. Parlo direttamente con mio amico Parenza. Adesso dobbiamo capire che gli italiani non possono più continuare così, per aiutare anche l'Africa, perché l'Africa un continente più grande tre Vabbè, volte Diop, di un però non ci fare due coglioni così sull'Africa, dimmi che io sono d'accordo nel cuscione dei francesi, volevo dire che cazzei quello che dico Salvini ha ragione, io lo do di meno, perché i rifugiati in quarto, lui dice che è un quarto, ma molto meno di un quarto. Ma tu mi puoi dire che la Guinea c'è guerra, la Gambia c'è guerra, la mia nazione c'è guerra, non ci sono guerre lì. Poi come vabbè, mi stai dicendo che la Francia fa bene a respingere questi qua e che non... Ma sì, perché come cazzo vengono lì, entrano così senza indugare. Loro hanno detto solo una cosa semplice, anzi i francesi non sono mai non erano mai simpatici per me. Vabbè. Però loro hanno detto devono individuare e quelli rifugiati. Vabbè, ma sai la contraddizione qual è della Francia? Qual è? La Francia è la prima che in passato ha ospitato dei terroristi e tu dovessi saperne basta, qualcosa. L'hai già detta la prima, l'hai già detta tre giorni fa, ripetita Juvent, mamma mia, dicono. Inventatene una nuova, ma dai, non è da inventare, vai. È un fatto. Se vabbè, posso inventare altre cose, detta, ma questo è un fatto. Dai, la Francia dà rifugio l'hai ai terroristi, l'hai già detta, e poi rifiuta l'hai già detta delle persone che scappano l'hai dalla guerra. L'hai già detta, l'hai già si detta. Dicono già anche tanti idioti l'hai che amano detta e dicono la stessa cosa. Anche questo l'hai già detto, lo stai ripetendo da due giorni. Come tanti idioti, lo stai ripetendo da due giorni. Ripeto la stessa cosa. Come tanti idioti, inventati cose nuove, studia, porta. Inventati cose nuove, studia. È due giorni che ripeti le stesse cose. Allora, se sento un altro studia, che dice portateli a casa studia, tua, io ripeterò. Studia. Ogni volta che sento una cosa ripetere, io ripeterò questo concetto. Vediamo, ripeti vediamo. È uno stimolo anche agli ascoltatori a dire cose diverse. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti, Padania bella e libera, guardavanti. Ascoltatori e Salvini, sentite. Ogni mattina quando accompagno la mia bambina all'asilo che ti ha conosciuto, diciamo le preghiere. Se tu hai fede o non hai fede, sai lei alla fine cosa dice? Angelo custode, proteggi Matteo Salvini, il mio Matteo. Ciumbia, grazie alla bimba perché ne ho quando bisogno. Vengo. Vai vedere le tue ragazzi, braccia. Ma anche no, ma anche no, cioè siamo a livelli ormai di idolatria a Radio Padania. C'è una signora che chiama con la figlia che dice proteggi Mattia e Matteo Salvini. In Corea succede. Su. Il Nabucco salirà alto nel cielo. E finiamola di chiamarli disgraziati, poveracci. Poi ieri io 20 miglia ho visto uno che veniva avanti, probabilmente sarà stato poliomelitico perché zoppicava in una maniera molto molto vistosa. Ma cosa è venuto a fare quello in Europa? Ma tutta sta gente ammalata che arriva. Un poliomelitico, bellissimo, un poliomelitico. Ma che cos'è questo? Se non, io non lo so, come si definisce sta roba? Questo è un ascoltatore che chiama. No, ma come si definisce ma sta cosa? Ma stai tranquillo, ma stai calmo, stai calmo. Si definisce idiozia o no? Stai calmo, sai dire no. Solo questo, stai calmo. E invece di tu qualcosa di originale. Ogni giorno ne dico, per fortuna. Per fortuna non mi manca questa roba. Insomma. Io gli ho portato il prosciutto Rovagnati dal Bengala, non lo vogliono perché dice che è un animale sporco il maiale. Rovagnati, il branco di sotto, non l'hanno voluto. Allora, il prosciutto, il gran biscotto Rovagnati, portalo a Pontida domenica perché sicuramente c'è qualche mamma o c'è qualche nonna o c'è qualche bimbo che il gran biscotto Rovagnati lo mangerebbe molto volentieri, ma non se lo può permettere, non facciamo demagogia. Di onnipotenti che ci ha reso schiavi. L'ascoltatore diceva che ha portato il Rovagnati dai migranti, ma questi non l'hanno voluto perché c'era il maiale. Ma è con noi il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. Buonasera, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Ben ritrovato. Quanto tempo? Bene, però scusi, perché uno dovrebbe portare il maiale ai migranti? Allora che fa? Agli ebrei pure gli porta il maiale. No, cioè, però scusi, sono Crocetta, questi se sono morti di fame uno gli porta il maiale e magari lo mangiano, no? Ascolti, allora questo rivela che loro hanno una grande dignità. Cioè, nonostante la fame, c'è una persona che sta morendo di fame e preferisce morire di fame piuttosto che rinunciare ai propri principi. Questo dovrebbe rivelare che queste sono anche delle persone serie. Vabbè, comunque, non lo so, se uno c'ha fame, c'ha fame, c'è poco da fare. Se uno, sì, c'ha fame, però io le assicuro che un ebreo, sì, bravo, esatto, vero, non mangerà mai. Guarda che c'era gente. Anche se c'ha fame, perché fa parte di una vicenda culturale profonda, dove il rapporto con la vita è sacrale. Il campo di concentramento, c'erano persone che non mangiavano il maiale. Perché se uno crede in Dio, rispetta la religione degli altri. Esatto. Scusi. Anche perché il nostro Dio è lo stesso Dio di Abramo. Di Abramo e Isacco, è lo stesso Dio degli ebrei e dei musulmani, e l'ha detto anche il Papa. Ha detto ma anche al di là il Papa. Del Papa, e lo dice anche, lo dicono anche le scritture: è lo stesso Dio, perché è Allah. È vuol dire Al, che è l'articolo, che è il Dio, che il Dio vuol dire il Dio. Anche in ebraico questa cosa è la stessa cosa, è sempre là, perché quando c'è questa cosa di Gesù Cristo nella croce che dice Eli, Eli, vuol dire Dio mio, semplicemente. Però adesso Crocetto non mettiamoci a fare sabachthani, non mi abbandonare, non facciamo, perché io l'ho capito, perché Salvini gli doveva portare proprio biscotti con maiale, gli portava il pane integrale e probabilmente quelli se lo mangiavano, costava pure di meno. Senta, ma secondo lei, perché Salvini vuole offendere sapendo che li offende? Secondo lei è un pericoloso fascista Salvini? No, io non che me frega di etichettarlo. Che ne so, secondo lei, secondo quello che dice, molti secondo lo dicono. Ma è uno che non ci sta di cervello, tutto qua, che c'è di male? Non ci sta di cervello, cioè peggio che razzista. Che c'è di male, che c'è di male? Cioè, andrebbe ricoverato, voglio dire, con la vita, con i valori. Passa da un cosa all'altro. No, passa da un cosa all'altro. Dice che è pericoloso. Li dobbiamo buttare a mare. Ma non dice che li dobbiamo buttare a mare, dice che non devo. Mi dica cosa dobbiamo dire, perché. Ma è da ricoverare, quando secondo lei? Fanno, dicono non li vogliamo in Lombardia, non li vogliamo in Veneto, non li vogliamo. Cosa dicono? Li dobbiamo lasciare in Sicilia, praticamente. Ma è in Sicilia, siccome noi non li vorrebbero nemmeno in Sicilia, in realtà. Scusi, siccome noi la stessa scelta non la possiamo fare, perché quando vengono da noi l'unico confine che noi abbiamo è centro isola e il mare, no? Sostanzialmente, se noi dovessimo avere le stesse teorie, le stesse posizioni di Salvini, praticamente dovremmo lasciare che questi affondino a mare. Il tema non può essere quello. Ma scusi un attimo, ma secondo lei non devono partire? Però lei dice la stessa cosa che dice Salvini, pure secondo Salvini non devono partire. Che dobbiamo fare? Affondare i barconi allora? Affondare i barconi? Che dobbiamo fare? Diciamo però una cosa diversa. Che quando sono partiti, che noi la battaglia la dobbiamo fare per non farli partire, per arrivare a flussi programmati di immigrati. Però quando qualcuno sta annegando, noi abbiamo il dovere di prendere. Ma questo nessuno dice il contrario. Afferrarla, perché non possiamo fare questa battaglia rinunciando ai valori della nostra civiltà. Senta Crocetta, io non ho capito, ma secondo lei Salvini è da camicia di forza? No, guardi, io penso che Salvini è così, ha un problema con che? Col cervello? Col mondo. Col mondo. Con l'umanità. Con se stesso, penso che sia un infelice. Con se stesso. Poveretto. Un infelice? Perché un infelice? È uno che se la prende col mondo intero. Cioè non sta bene con se stesso, secondo lei, Salvini? Ma secondo me sì, perché uno che praticamente sente il bisogno, sapendo che quelli non lo mangiavano, di portare il biscotto, che non cito la marca, per non fare pubblicità, per essere chiaro, apposta, è infelice, è uno che ha problemi con se stesso. Quell'altra ditta, non la cito, però insomma io so benissimo, fra l'altro i dolci senza burro, dovrebbe sapere, senza strutto di maiale, che sono molto più buoni e più salutisti, perché non fanno venire colesterolo. Quindi dovrebbe sapere che questa è una buona tradizione, quella di farle senza strutto. Anzi, ma lei come fa a dire che è un infelice, scusi Salvini? Ma sì, perché sono un infelice, può pensare di creare l'infelicità degli altri. Qui siamo al disprezzo dell'altro. Lei non pensi che questa cosa del biscotto è un vabbè, adesso un il biscotto non è umanitario. Ma i biscotti non è una piccola cosa. Anche la carne halal, io l'ho mangiata tante volte. La carne? Halal. Macellata islamica. Non lo sa lui, è la pura, carne macellata, secondo la tradizione. La macellata praticamente con sgozzanto, quindi che perde il sangue. È molto più buona, è molto più igienica di quella dove l'animale soffre meno, il sangue viene lasciato. E allora noi rispettiamo di più le cose degli altri. Non, il problema è che si odia tutto ciò che sei, anche i biscotti senza frutto sono buoniti, impastati col miele, con le cose naturali. Vabbè, riferiremo a Salvini un attimo solo, che c'è la pubblicità, poi torniamo con il governatore della Sicilia Crocetta, che parla dei biscotti senza frutto. Bisogna dire che in Sicilia ha preso una bella batosta il Partito Democratico, in particolare nella sua città il Movimento 5 Stelle all'assalto, vorrebbe pure fare la pelle nel senso di cacciarlo via da Palermo. A tra poco. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. La Zanzara. Eccoci qui, popolo della radio, la Zanzara. Riprendiamo con Salvini, che dice che a Pontida ci saranno anche i bambini con le magliette con la ruspa. Anche no, però, i bambini con le magliette con la ruspa, Ci saranno le magliette a grande richiesta delle ruspe in azione, in migliaia di copie, anche quelle per i bimbi. Ecco, mi piacerebbe avere come l'anno scorso sul palco tanti bimbi. Lo dico alle mamme e ai papà in ascolto, visto che sarà una giornata di festa. Voglio dire a Crocetta, il governatore della Sicilia, che è in collegamento. Intanto fa diseducazione alimentare nei confronti dei bambini, perché i biscotti con lo strutto non li mangiano. Ma non è io prima i biscotti. Fanno male, quindi almeno questa responsabilità gliela volete dare già. Spiegategliela a Salvini, che si rivolga a un dietologo. Ma non si parlava di biscotti, si parlava di una marca di prosciutto che si chiama Gran. Pieni di ma scusi, lei che mangia, Crocetta? Qual è la sua dieta? Qual è la sua dieta? La mia dieta, guardi, è una dieta molto rigorosa. Cioè? Io mangio vegetali, sì, proteine pure, mai fatte con cose, evito grassi, evito tutto ciò che può fare male. Vegetariano, mi trovo benissimo. Cioè, è diventato vegetariano? Riesco a fare delle giornate di lavoro anche per qualche noce, per esempio, che fa benissimo. Sì. Che oggi, per esempio, non ho mangiato assolutamente nulla, perché io... Cioè, diciamo, da stamattina che non ha mangiato niente. Perché è la regione che non mangia, siciliana. Il primo presidente che non mangia. Ma scusi, la sua dieta tipica, la mattina a colazione, per esempio, cosa mangia, Croce? Io a colazione bevo solo un caffè. Beve un caffè, poi andiamo a pranzo. Niente, no, niente. Un caffè, più che un caffè, tanto caffè. Tanto caffè. A mezzogiorno, quando mangio un'insalatina, per esempio, con un po' di tonno. Non pane che a meuzza. No, non mangio la mensa. Pane che a meuzza. Insalatina, no. Con pane tonno, non poi? Lo mangio. Poi? Oppure faccio, per esempio, anche ci sono gli sciroppi molto buoni, molto buoni, che sono passate su diete per proteiche. E la sera? Proteine pure, che non fanno male, che non hanno grassi, che non è, e mantengono bene senza... E la sera? E la sera, per esempio, preferisco un po' di ricotta, qualche noce, un po' di salata, noci. E tutto qui, della melanzana alla parmigiana, molto buona. La melanzana alla parmigiana è pesante. Alla piccola, delle cose... Ma diciamo che non sono uno che, insomma, che mangia, ecco. Non è uno che mangia. Ma scusi un attimo, Crocetta, ma in tutto questo lei è riuscito a dimagrire qualcosa o no? Come no? Guardi che io sono diversi chili meno rispetto a quando sono stato eletto. Cioè, è dimagrito di quanto? Lo sanno tutti. Da quando è stato eletto? Quanto ha perso? Non lo potete vedere, ma la televisione si vede. Quanto ha perso da quando è stato eletto? Guardi, i chili proprio non l'ho contato. Come non l'ha contato? Che ne so, 20? Sono 7 chili di meno. 10 di meno? 7 sicuri. 7, vabbè, insomma, 7 di meno, eccetera. In tutto questo è riuscito a trovare un fidanzato? No, ma 7 chili non mai cosa. Ormai sono peso mio. Scusi un attimo, Crocetta, io mi informo sempre della sua vita privata perché mi interessa particolarmente, ma lei allora, finalmente non mi scopo, non glielo dirò mai. No, finalmente non scopo. Non scopa. No, ma è riuscito a trovare un fidanzato o no? Finalmente. Ma la mia età. Ma perché? Non ho capito. Ma lasci perdere le diatribe dell'isola, le coltellate, la politica, i partiti. Si dedichi a un fidanzato, vada, che ne so, vada in... Ma io lo vorrei trovare uno. Trovatemelo voi, grazie. Vada a Porto Palo di Capopassero. Ma ci sono tanti bei ragazzi anche. Ve lo chiedo per procura. Ma veramente vuole trovare un fidanzato? Ma quando mai? Ma perché io sono no? Un uomo libero, sono un uomo libero che non ama legame. L'unico fidanzamento che concepisce è quello di starsene tranquillo per i fatti suoi. Io se sto con qualcuno, dopo un po', se all'idea che deve dormire nel mio stesso letto, diventa pazzo. Io entro in crisi, oppure che me lo devo trovare. Anche perché, guardi, le coppie hanno come problema, sa quale? Quale? La noia. Sono insopportabili. Io non riesco a incontrare le coppie insieme. Perché dicono, parla uno e dice noi. Sì, noi pensiamo così. Sì, ha ragione. Noi facciamo così. Su questa ha ragione. Noi, non io, tutti, non è vero. Voglio dire, l'idea che dovrei dire noi mi distrugge. No, ma io... Infatti le coppie riesco a vederle. Io ho certi amici che hanno coppie eterosessuali, sì, certo. Omosessuali. Però le ripeto, li riesco a vedere insieme, appena insieme mai, da soli sì, appena li vedo insieme diventano insopportabili perché mi propongono la loro finta sintonia, finta, armonia, sì, finta, sì, ipocrita, permanente, che non la pensano mai diversamente, l'ipocrisia delle noi mangiamo così, noi saltiamo, noi facciamo un primo a mezzogiorno, un secondo la sera, noi preferiamo la riviera. No, ma ti vorrei abbracciare, Rosario, la penso come te, guarda, la penso come te. Guarda, spesso non, non mi state a proporre sta coppia, per no, favore, ma che ne so, magari volentieri. No, la coppia no, cercate, però ogni tanto la campagna quella che volete, ma a me non mi avrete mai sodale compagne. E dunque questo. Noi matrimoni gay pure. No, adesso voi scriverete crocetta contro i matrimoni gay. No. Io per carità, se io sono di un altro avviso, che chi si vuole sposare si sposi, sì. Se questa possibilità viene data agli eterosessuali deve essere data anche agli omosessuali, perché sì. Non capisco perché non dovrebbero, certo. Avere però è contro questa possibilità, però non ti conti su di me. No, per carità. In questa complicità scellerata in cui io dovrei condividere questo percorso insopportabile di vita. Io sono uno che appena entra a casa sua butta le ciabatte in un posto, sì. Poi il pantalone in un altro posto, la camicia in un altro posto e lascia tutto in disordine. Se e non vuole di non avere un rompipalle qualsiasi, sì. Sotto qualsiasi identità sessuale che mi dice metto tutti in ordine a casa, lo voglio fare. Però scusami Rosario, io dico una cosa, no, ma ogni tanto una scopatina, diciamo la verità, e facciamocela, no, e ne so, un'avventurina. Ma scusami, devo fare l'annuncio sulla radio per ma questo? Sì, ho detto ogni tanto una cosa, no, va scusa, fatta, una sveltina. Perché lo dovevi venire a raccontare, no, a te, perché lo dovrei dire ma alla una radio. Sveltina, una sveltina. Non lo so, perché dovrei fare questo annuncio? No, un annuncio no, però ogni tanto, anche ma per sfuggire. Ma non ce lo dice. Grazie, grazie. Anche per si sfuggire. Sa che la gente dà buoni consigli, diceva De André, quando non può dare più cattivo esempio. Ma secondo me ogni tanto qualche cosa, anche sì, uno sfogo. Grazie per i consigli, sei bravo, sei una persona brava, grazie, accoglierò il tuo consiglio. Però niente, cosa? Non ce la fai, da quant'è che non fai sesso? Ma dai, che ne so, tre anni, due anni, dai. Da quando fai il presidente l'hai fatto o no? Sì. Ma te che te ne frega, scusa. Ma io sono appassionato alla tua geloso. Chiedi a Maroni se ha fatto sesso. Non ti preoccupare, che se capita glielo chiedo. No, scusa, perché tu non chiedi a Maroni? Beh, le avventure di Maroni si conoscono, però. Al sindaco, al presidente del Piemonte, al presidente del Consiglio. Perché tu pensi che agli eterosessuali questa domanda non si debba fare? No, e agli omosessuali sì, no, in fondo, assolutamente. Anche tu c'hai un incoscio in omofobo. Cui pensi che omofobo. Noi omosessuali dobbiamo fare sempre outing, dichiarare la nostra vita privata, siamo diversi e dobbiamo rivelare con chi facciamo l'amore o meno, no. Quante volte lo facciamo. Noi siamo esattamente come tutti gli altri, siamo... No, ma siccome tu più volte hai dichiarato di essere, come dire, no, di ormai casto. Che casto, continuo a esserlo casto perché non riuscirete a sporcarmi con le vostre polemiche. Ma questo. Che polemiche, figure. Allora, tu lo sai che in Marocco hanno vediamo che succede in Marocco. No, in Marocco hanno fatto una copertina di un settimanale molto conosciuto in cui c'era questo titolo: dovremmo bruciare i gay, ti giuro era così. È un diritto individuale, ma un settimanale molto diffuso, non un settimanale omofobo. Certo. diritto, un diritto individuale. Ci troveremo in mezzo alle fiamme, favolosi. Ma che ne è della morale e dei valori religiosi? Dove? In Marocco. In mezzo alle fiamme, ma in Marocco, tra l'altro, è pieno di froci. In Marocco, detto in senso così, non dispregiativo, è pieno. Io posso utilizzare, ho avuto la dispensa, Crocetto, di poter utilizzare la parola froci. Ascolta. Dimmi. Il tema è, in questo caso, che pensare che esista un paese al monto, sì, monto dove sì. non esistono gli omosessuali è proprio un'illusione. Assolutamente. Assolutamente, figuriamoci. Voi ci volete bruciare, pazienza. Ma no, ma è quello in Marocco. In Marocco, mica noi, per carità. Diciamo che lo facciano almeno in interno. Vogliono fare proprio. Senti, non ho capito, dopo tutti interessate perché già in Marocco ti muore dal caldo. Ma non ti senti assediato, presidente, scusa. Ecco, passiamo alla politica. No? Un incendio che a Marrakech sarebbe brucierebbe tutta la città, diciamo, diciamocela no, tutta. Ma soprattutto brucierebbero gli alberghi dei turisti. Senti, parliamo un minuto di politica. Un minuto, perché due palle così. Ma non ti senti, come diceva Parenzo, un po' assediato? Cioè, Renzi, ti dimetterai o non ti dimetterai? Oppure arriverai fino alla fine? Mai dimissioni. Ma perché dovrei dimettermi per fare ritornare i vecchi ceti di potere di questo sistema? Ma Renzi non ti vuole, però. Non ti vuole, mi pare. Vabbè, Renzi, non lo so se non mi vuole o non mi vuole, sono fatti i suoi. Intanto, voglio dire, resta il fatto che io sono l'unico vero rottamatore, mentre... Cioè, l'unico rottamatore sei tu. I renziani sarebbero da rottamare in Sicilia. L'unico rottamatore vero sei tu. Ma tu hai dato... Sì, hai dato in Sicilia sicuramente. Hai dato a Renzi... persino prima di lui. Hai dato a Renzi... Hai dato a Renzi la responsabilità della sconfitta in alcune città. Questo non si fa, però, che c'entra Renzi? Hai detto è colpa sua, ma non è venuto. Hai detto che ha perso Renzi? Beh, tu hai detto è a Gela, non è venuto... Ma io ho detto che era colpa sua. Beh, insomma, un po' sì, dai. No, sono loro che tentano di attribuirmi la sconfitta di Gela, che non c'entra l'accidente. Perché della mia città doveva vincere per forza il sindaco candidato del centro-sinistra, in nome di che cosa? Perché comunque, la mia città, che sono io un notabile che ha il feudo della politica e può trasferire il proprio consenso sugli altri. Questo è vero. Ma diciamo, io mi pare che uno stile di politica completamente diverso. Diciamolo chiaramente, Rosario. Non io... è strutturato, il voto a me non è strutturato, è un voto d'opinione. Lo è sempre stato, nel momento in cui in Italia tutti perdevano, io ho vinto le elezioni a Gela con 75% a primo turno. Senti un attimo, lo quando sai, in Italia il centro-sinistra perdeva dappertutto. Quando sono stato parlamentare europeo, cioè tu in Sicilia sei più forte di Renzi? Quando sono stato candidato alla regione sono il primo uomo del centro-sinistra che vince le elezioni dal 46 in poi. Rosario, ma tu sei più forte? Dovrebbero fare come se dovrebbero andare a Lourdes per ringraziare la Madonna per avere portato Renzi, dovrebbe andare sinistra al governo, e da quando sono è stato eletto non fanno altro che dunque Renzi dovrebbe andare a Lourdes. Attaccarmi. Io voglio dire, allora il fatto che nei ballottaggi le tre città siciliane e le tre città toscane, che le uniche tre città toscane che erano a ballottaggio, hanno perso, allora che colpa di Rossi o di Renzi? Ma veramente il PD non ha perso le elezioni in Sicilia, per essere chiaro, anche a Gela il centro-sinistra c'ha il 60%, il sindaco ha il 24% a primo turno. Scusami, Crocetta, però spiegatemi il consenso. La mia lista c'ha il 12%, per essere chiaro. Però, Rosario, è la seconda forza politica in consiglio comunale a Gela, che si chiama lista Crocetta. Ho capito. Se ci deve essere un dissenso a me, credo che si sarebbe manifestato. Ma in Sicilia sei più forte? No? In Sicilia sei. Invece prende 5 ho capito, adesso non fa. Uno in più dei grillini. Rosario, in Sicilia sei più forte di Renzi? Ma perché io dovrei mettermi... in Sicilia sei più forte di Renzi? Perché io dovrei mettermi in competizione no, con Renzi? No, per dire, sei più forte anche di Renzi. Perché ho stima di Renzi, per essere chiaro. Io in Sicilia ho vinto grazie al fatto che sono riuscito a trovare indicato un'alternativa che ha destrutturato sia il centrodestra e anche... fatto lo sgambetto ai grillini, altrimenti vincevano i grillini in Sicilia. E che sarebbe un disastro? Alle elezioni sarebbe stato un disastro. Questa cosa nel Partito Democratico non l'hanno capito. Ma è un, sarebbe un disastro, hanno, no? Pensato, hanno pensato che ormai basta così essere renziani perché si vincano le elezioni. E invece no, invece mi no. Pare che le elezioni regionali hanno dimostrato che le vicende politiche, elettorali, vanno da sé in ogni elezione. Renzi vince le europee, vince quando lui è candidato, non vince, poi non vincono i renziani. Perché non è che basta che uno sia renziano per vincere. No, non c'è dubbio. Non o c'è non dubbio. Lo sia. Non c'entra niente. Noi allora avevamo un candidato renziano, candidato a sindaco di Genova, allora che ha perso Renzi. Va bene, tutti, ciao Rosario, scusa, grazie. Noi vinciamo un po' dappertutto in Sicilia, per essere chiaro. Da quando ci sono Beh, il ballottaggio avete perso un po' di al governo. La Sicilia non governava manco una città, per essere chiari, prima. No, vabbè, vabbè. Adesso ha vinto le elezioni a Catania, le ha vinte a Siracusa, le ha vinte. Rosario, ti devo salutare. Modica, ti devo salutare. Le ha vinto a Marsala. Grazie. Ho capito, ma non possiamo fare comizio qua. Ciao. Le città siciliane. Ciao Rosario. Non esiste più. Ciao Rosario, ciao, ciao, ciao, ciao. Pungete, pungete, pungete. La Zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Ah, ragazzi, ragazzi, andiamo a Napoli, Anna, vai, forza. Volevo dire che premetto che questo Papa non mi piace, ma oggi non ti piace il Papa, allora? No, assolutamente. Oggi poi ha raggiunto proprio l'acme della, della ipocrisia, sì. Perché dire che debbano essere perdonati coloro i quali con obiettività, oggettività vedono che questo problema non si sta risolvendo ma sta soltanto rovinando l'Italia e soprattutto il Sud, vuol dire proprio non voler vedere la realtà, fare il politico, cioè non dire quello che realmente... Fa il Papa, signora mia, come si chiama? Anna da Napoli, fa il Papa. E per fortuna si può anche, per fortuna si può anche criticare. Ma io figurati, non sono neanche cattolico, quindi per fortuna si può anche criticare. Però, è incredibile. Penso, però cioè, proprio perché fa il Papa dovrebbe essere più sincero. Non dovrebbe, già si è rovinato quando ha detto che dovevamo accoglierli. Quante persone sono venute in più per quell'accorato appello? Tutte, sentito il Papa, sono venute, non perché c'avevano fame o la guerra, siccome gliel'ha detto lui di venire. Ma anche ma è una roba intelligente da dire, ma come si fa? Cioè, hanno sentito il Papa e quindi sono venuti. Enrico da Napoli, grazie Anna. Enrico, Napoli, vai. Enrico? Se dimmi, senti Cruciani, volevo dirti una cosa. Dimmi, dimmi. In effetti, noi napoletani siamo molto tolleranti, però voglio dirti una cosa. Io abito, purtroppo, la sfortuna di abitare in un posto dove ci sono tre campi rom. Sono sorti all'improvviso, come per incanto. Sì. E sai cosa è successo? È successo che tutti i tombini della nostra zona sono spariti. Quindi questo denota un inconveniente pazzesco, perché tu di notte se ti trovi a camminare ci va a finire la gamba e ci spezzi pure la gamba, con la macchina ci va a finire dentro. Quindi è problematica questa cosa. Noi siamo molto tolleranti, noi non è che siamo razzisti. Io sono d'accordo con Parenzi che bisogna essere accoglienti con tutti, però loro ci mettono a disagio, perché noi già siamo rovinati qua. Loro comunque continuano ad alimentare la cosa, hai capito? Va bene Enrico, Naio Parma, vai. Sì, buonasera Crociani. Dimmi. Volevo dire soltanto una cosa, che voi avete già criticato troppo. Aspetta, aspetta col traffico, aspetta, aspetta, è una rottura di cazzo oggi, guarda, traffico, vai. Non è che conduci, tu dirigi, cioè dirigi il traffico. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, la cosa incredibile che è successa è che qualche istante fa il ministro dell'interno Alfano, uscendo dall'incontro con i sindaci, ha mandato un tweet. Il tweet è molto semplice e recita così: bisogna smantellare i campi rom. Bene. Mi pare una cosa normale, il ministro degli interni Alfano, cioè che dice bisogna smantellare i campi rom, cioè siccome il consenso, le elezioni eccetera eccetera, perfino Alfano arriva a utilizzare frasi di questo tipo. Ora io sono d'accordo ovviamente, ma che lo dica Alfano è chiaramente una cosa strumentale. Smantellare i campi rom, Alfano. Io tornerei sulla vicenda Marino dicendo una cosa ancora una volta, che insomma il Presidente del Consiglio deve fare il Presidente del Consiglio, non può minacciare il Sindaco di Roma. Allora, Marino è stato eletto Renzi non è stato eletto, io dico questo. Barbara Palombelli è con noi, buonasera. Beppe, la penso assolutamente come te da un punto di vista formale. Addirittura. Però tu stai a Milano e non stai a Roma. Io a Roma ricevo, incontro tante persone ogni giorno, al supermercato, al lavoro. Che non ne possono più di Marino. Sì, non ho trovato uno che mi dice. Ma chi l'ha votato sto Marino allora? Però i romani lo sai come sono. Io ho votato però. Marchini. Eh? E i romani lo sai come sono? Cioè si sono subito disincantati. No, i romani figurati, sono sempre contro tutti i sindaci, ne so qualcosa. Anche appunto, contro le mogli dei sindaci. Contro le mogli dei sindaci. Dicono no, sempre, vabbè, quel sindaco fa schifo, poi quando si va alle urne bisogna vedere. Insomma, no, è vero, certo. Da un punto di vista della legittimità, Marino è stato eletto e questa è un'ingerenza gravissima. L'avesse fatto Berlusconi, l'avesse fatto qualcun altro. Diciamolo. Ma adesso è tutto cambiato, qualunque cosa si dica, che hanno solo paura di Salvini. Maduro in Italia, no, secondo te, e Marini, poi in Francia hanno paura di Marine Le Pen. Io ero l'altra sera a una cena riservatissima all'ambasciata francese e sinceramente gli addetti dell'ambasciata mi hanno detto: ma per noi Ventimiglia è Marine Le Pen, se noi molliamo su Ventimiglia quella diventa Presidente della Repubblica. Cioè se entrano 100 capisci? Persone a Ventimiglia a piedi, esatto, magari poi Marine Le Pen diventa Presidente della Repubblica, me l'ha detto candidamente. Questo è il problema, è tutto lì. E in Italia mi sembra che le dichiarazioni di Alfano. Però ti volevo un commento, scusa, siccome io sono cresciuta con la Nutella, magari morirò specchietta stasera. Ma già da ieri abbiamo fatto il commento ridicolo sulla Nutella. No, però Segolena ha chiesto scusa, hai visto? Ha chiesto scusa, si è resa conto di questa follia totale, di questa follia totale di ieri sulla Nutella, perché potremmo dire tante cose sui prodotti francesi. Anche perché francesi. Viene a Roma lunedì, quindi... Senti, io non ho capito una cosa, allora, tu che sei stata al Campidoglio, non sai che sei stata al Campidoglio, insomma sei stata la first lady del Campidoglio per un po' di anni, questa vicenda di Marino è un po' paradossale, adesso abbiamo bastonato Renzi perché è un'ingerenza assurda. Della legittimità, certo. Ma sì, ma il punto è che se vuoi farlo cadere c'è la maggioranza in Campidoglio che potrebbe sfiduciarlo, ma ovviamente no, perché altrimenti Roma sarebbe perduta. Però diciamo, consentimi di dire che è anche assurdo che ci siano stati dei presidenti della Repubblica che hanno autorizzato questi governi non eletti, non parlamentari, vabbè. Certo, assolutamente. È tutto saltato, perché quello è un principio fondamentale. Io vado a votare, leggo un Parlamento, e quel Parlamento è il Parlamento di quel primo. Ma Marino, secondo te se ne deve andare o no? Detto da Barbara Palombelli, se ne deve andare subito? Ma guarda, secondo me la città è abbandonata, perché lui ha inseguito queste cose di immagine, Gay Pride, il Foro Romano a piedi, la bicicletta. La città come esci, no, non voglio dire, ma proprio le buche, è veramente abbandonata, lui non sa dov'è. Sì, ma è peggio di quando c'era Marino la città, è questo che io non ci abito più ormai, per guarda, fortuna. Sinceramente, diciamo, Alemanno non ha fatto quasi nulla, però nel non fare quasi nulla forse... Era quello che gli hanno chiesto quelli che l'hanno eletto, probabilmente saranno stancati di queste continue feste, notti bianche, no? Quando Francesco ha perso, io credo che abbiano pagato da una parte anche, no? La gente voleva dare un po' le vacanze a Roma, no? Sì, basta con tutte queste cose, troppa attività praticamente. Quindi è stato eletto Alemanno non ha fatto moltissimo e adesso poi è sotto accusa anche dai suoi stessi amici, alleati, cioè come sappiamo. Marino è capitato, è un UFO, io sono stata, guarda, ma c'ha sfiga Marino, 10 volte sono stata appresso a Goffredo Bettini dicendo devi fare il sindaco tu, onori ed oneri, perché con Goffredo doveva farlo lui, lui però se n'è andato fuori Italia, ha fatto questa scelta, la paura. Cioè, ma al suo posto Francesco si sarebbe dimesso con tutti i casini, che metti che fosse stato sotto indagine, insomma 3-4 consiglieri comunali anche importanti, assessori eccetera eccetera, che avrebbe fatto? Si sarebbe dimesso o no? Avrebbe resistito? Guarda, non lo so, però ai tempi di Francesco diciamo la politica sapeva quello che facevano le cooperative, sapeva quello che era più forte. Adesso la politica non esiste, quello va in bicicletta nel frattempo. Anche però, se Buzzi ha detto che tutto è iniziato attimo, anche con Rutelli. Cioè... Un attimo. Beh, no, non è che inizia. No, Buzzi allora, lo dice. Allora, la cooperativa 29 giugno, l'ho scritto anche sul foglio quando è stato Buzzi, è quanto di meglio sia esistito a Roma per non so quanti anni. Poi sono arrivati quelli della società civile, Luca Odben, eccetera, e magari hanno rovinato. Era una cosa, io ho fatto le trasmissioni radio da Re Bibbia, da Radio 2, ma con Buzzi, con tutta questa Antigone, Scalfaro, Monsignor Di Pietro. Cioè, che nessuno si rendeva conto di quanto. Nessuno ma, ricordati che Marino ha detto il primo stipendio lo regalo a Buzzi. Sì, come no, certo. Allora, questo che vuol dire? Che nessuno di voi si rendeva conto di quello che succedeva dietro? No, secondo me le cose che succedevano dietro, che sono molto ingigantite dai giornali, sono successe negli ultimi anni quando è finita la politica a Roma. Cioè, quando è finita la politica in tutti i sensi. No, e quindi ma oggi chi voteresti come sindaco di Roma tu oggi? Di nuovo io Martini? Oggi vorrei un commissario come il prefetto Gabrielli, che è fantastico, una città ordinata. Ma un Grillino lo voteresti mai? Un Di Battista lo voteresti mai sindaco di Roma? No, Di Battista no, però Grillo con i suoi voti potrebbe fare quello che hanno fatto Berlusconi, Veltroni, tanti, cioè prendere un personaggio della società civile e investirlo. Non è che c'è solo Rodotà in Italia, cioè Grillo ha fatto una campagna per Stefano Rodotà, che secondo me poi sarebbe stato anche un ottimo presidente della Repubblica. Ma detto questo, perché è un grande costituzionalista, quindi Vabbè, chi voteresti tu oggi? Non so, la Meloni non la voteresti mai? No, io vorrei un commissariamento che potrebbe anche portare Gabrielli a fare il sindaco. Ma Francesco potrebbe ricandidarsi? No, mai. Ma guarda, no, mai, gli taglio le palle. Ah, sei no, tu che non vuoi. 8 anni da moglie di sindaco, non gli auguro al mio peggior nemico, calunniata, derisa, espropriata, perché mio marito poi non lo racconta perché è un ragazzo. Ma insomma, mio marito ha espropriato mia madre di un terreno meraviglioso sull'Appia Antica per fare come un parco della Caffarella. Certo. Da sindaco. Da sindaco. Sì, perché mio nonno l'aveva comprato nel dopoguerra, come tutti i romani, diciamo, benestanti. Pur di non avere conflitti di interessi, ha creato un danno in famiglia. Guarda, un danno serio. Perché mio nonno, penso, l'aveva appunto comprato il terreno per farsi la villa. Negli anni, fine anni 40, tutti i romani hanno fatto questo, i romani benestanti. E questi erano 6 ettari meravigliosi, tra l'altro il parco della Caffarella non ci sono mai andata, ma non credo neanche che l'abbiano come al solito devastato. Va bene, ciao Barbara, presto, ciao. Pubblicità. Esatto, che ormai è tutto finito. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. C'è un settore dell'industria italiana che fa muovere l'economia reale, trasporta la ricchezza, si muove al ritmo del paese. È il settore dell'autotrasporto, che fa arrivare nelle imprese, nei negozi, nelle case, tutto ciò che quotidianamente utilizziamo. Radio 24, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, vi accompagna in un percorso per conoscerlo meglio, nei numeri, nei problemi, nelle opportunità, nelle imprese. Gli orari degli appuntamenti su radio24.it. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni e vorrei un furgone Peugeot. C'è il nuovo partner con ben 4 metri cubi di carico e lunghezza utile superiore a 3 metri. Ragazzi, tutti dentro! Piano però! Nuovo Peugeot Partner, con motori blu HD Euro 6, sensori Bluetooth, touchscreen e navigatore. A 320 euro al mese per 3 anni con noleggio all'inclusive. In più, manutenzione ed assistenza garantite Peugeot. Peugeot. Scade il 30 giugno, salvo approvazione PSA Renting Italia. Fogli informativi in concessionaria o su peugeotprofessional.it. Un politico corrotto. Un brutale omicidio. Un'indagine dai risvolti oscuri. Arriva la seconda stagione di True Detective. Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Taylor Kitsch e una storia ancora più avvincente. Da lunedì 22 giugno in contemporanea con gli USA solo su Sky Atlantic HD e con la funzione registra serie di MySky. Registri in automatico tutte le tue serie preferite e non ti perdi neanche una puntata. Sky Atlantic HD. Grandi serie, grandi storie. Mi scusi, dove posso trovare un buon investimento? Prenda la prima a destra, al semaforo a sinistra e poi sempre dritto. E arriva in Europa. Mediobanca Europa Callable. L'obbligazione a 10 anni con facoltà per l'emittente di rimborso anticipato dopo 5 anni e un tasso annuo fisso del 2,75% lordo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce una sollecitazione all'investimento. Prima di ogni negoziazione leggere il prospetto su mediobanca.it. Le obbligazioni sono negoziabili sul segmento Domestic Mod. Sono soggette al rischio di rimborso anticipato a favore dell'emittente e il rendimento dipende anche dal prezzo di acquisto vendita. Vi parlo da Pavia. Sono qui a pochi metri dalla Certosa che sta scomparendo. Come sarebbe Pavia senza la Certosa? E come sarebbe la Lombardia senza il suo patrimonio di biodiversità? Scopri come tutelarlo. Vai su naturachevale.it. Campagna finanziata dalla Commissione Europea, programma Life Più, progetto gestire. State ascoltando un programma offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. La Zanzara. Allora ragazzi, vi devo confessare una cosa. Ho ricevuto una telefonata dal governatore della Sicilia Crocetta, il quale mi ha spiegato che lo ha chiamato uno psicanalista. caro Parenzolo, ha chiamato uno psicanalista e gli ha detto che il mio inconscio è omofobico, perché faccio domande sullo stile sessuale dei gay, e allora il mio inconscio sarebbe omofobico. Beh, lo dicono in te. No, qualcuno no, dice addirittura omosessuale. Ma l'inconscio invece omofobico. Allora, questo psicanalista che ha chiamato il presidente della Regione Sicilia, uno psicanalista molto importante, molto bravo, mi sembra che si chiami Crocetta Antonio De Filippi, giusto? Sì, è molto bravo. È molto bravo, Antonio De Filippi. Allora, che cosa ha detto questo Antonio De Filippi, questo psicanalista? Che mi sembra che la tua interpretazione, sì, sull'inconscio di Cruciani, sì, sull'inconscio omofobico di Cruciani, sì, sia perfetta, stata magistrale, cioè da lezione praticamente cattedratica, cioè da università per il senso. Cioè io avrei un inconscio omofobico, sì. questa valutazione. Posso chiarire meglio il mio pensiero, così mi prenderò un altro complimento di qualche altro psicanalista. Dimmi qual è il tuo pensiero. A volte persino gli stessi omosessuali hanno un inconscio omofobico. Ah, cioè? Perché la società, dicevo, Ian Rice, che la struttura della società determina la sua struttura. Vabbè, se non complichiamo le cose. La struttura sociale diventa struttura psichica. L'omosessuale a volte ha un inconscio assassino nei confronti di se stesso, perché la società gli ha insegnato fin da piccolo, sì, che l'omosessualità non è accettabile, e quindi si sente colpevolizzato. Manifesta a volte comportamenti estremi per tutte le stesse ragioni. Noi non chiederemo mai a me, guarda, io no, però scusami, com'è la storia? Ti sta dando dell'omosessuale o omofobico? No, il problema fondamentale è un altro. Vabbè, che tu poi capito che i discorsi complicati non li voglio no, fare. No, i discorsi complicati sono difficili. Essere populisti. Ma no, populisti, scusami, Rosario, quella cosa che mi dicevi prima. Parlate delle cose, no, ma è interessante questa cosa qua. Che Salvini, non siete populisti. Ma secondo te Salvini, è uno sessualmente soddisfatto o no? Io non lo so, sessualmente soddisfatto, non voglio dire. Che sia un essere infelice, guarda, io lo vedo. L'abbiamo già detto. No, ma non è sempre cazzato. Poi c'è fatto sta cosa, sta barba che gli sta malissimo, che rivela una disistima personale nei confronti suoi, no, però voglio dire un po' di brutto, ma se fosse crema, l'ultimo uomo un po', capito, la sestrina di questo assalto che ti tirano la pelle, ti fanno sembrare bello, capito, così, cioè si deve togliere la barba, si deve togliere la barba, uno può dire uno felice così, capito. Ma se fosse l'unico uomo, rimasto sulla terra, ci andresti tu con Salvini? Madonna, questa è manco estrema cosa, ma manco preferirei le fiamme dell'interno vittima del Marocco, ma preferirei candidarmi automaticamente al robo da solo. Però un'ultima cosa, tu mi hai detto una cosa interessante prima, che in realtà non è vero che il fatto che attribuiamo sempre agli omosessuali dei discorsi sul sesso è sbagliato, perché in realtà non c'è, diciamo, che gli omosessuali siano solo sesso, e invece, cioè, che in questo caso la loro collocazione sociale, sì, non è che noi vediamo l'omosessuale come operaio che ha i suoi problemi, come disoccupato, come artista, come politico. No, ma come uno che scopa. Ma quando si sa che è omosessuale, infatti la riserva che hanno gli omosessuali a fare outing deriva da questo. Il giudizio che abbiamo su di loro diventa automaticamente preponderante l'elemento della sesso, dell'omosessualità. Invece possono essere impotenti, dotati, mini dotati. Il presidente della regione che sta qua, che è la regione più sfortunata della terra, che ha avuto praticamente dal 46 in poi un governi allucinanti che l'hanno distrutta, la mafia che rischia la pelle, cioè, divento il presidente gay, giusto, a parte che sto gay, che vuol dire? Come che vuol dire? Manco gay sei. Perché gay è segno di una certa cultura, soprattutto americana, anglosassone, mentre io sono un omosessuale italiano. Omosessuale italiano. Nella storia d'Italia, con tutti i rapporti così sono come sono. Cioè tu dicevi i gay, gli omosessuali possono essere impotenti, dotati, mini dotati, come tutti gli altri. Dotati, sessuali, felici, non può proprio pegare i miei infelici, può pegare molto se stesso. Non puoi fregare manco nulla. Vabbè, abbiamo spiegato tutto. Abbiamo spiegato però, tutto. Volete sapere sempre successo di tutti gay, di questi omosessuali? Ma no, di tutti in realtà, di tutti, no, di non tutti. Non partecipo al gioco, non perché me ne frega o perché abbia paura di rivelare la mia vita privata, perché se l'avessi avuto questa paura non avrei fatto outing non ho a Copenaghen, ma a Gela. A Gela. Va bene, dove Rosario, grazie, ti devo salutare. Ciao, ciao, un abbraccio, ciao, ciao, ciao. Ciao. Quando attacca poi è difficile. Franco da Chieti, vai, 800 24 00 24. Crocetta e il sesso, una cosa pazzesca. Io sarei omofobico, ma dai, su. Franco da Chieti, dai. L'ha detto uno psicanalista. Ciao Cruciani, mi senti? Dimmi, dimmi. Ciao, sì. Parenzo. Ciao caro. Senti, ho 63 anni, non sono in pensione e non ho reddito da 5 anni disoccupato, quindi permettimi di fare prima un pensierino alla Fornero dicendole: signora, ti penso tutti i giorni. Allora andiamo all'argomento che vorrei trattare. Qui si tratta di fare degli emigranti. Qui si tratta di fare un'accoglienza da paese civile. Nel frattempo che i nostri politici ci riescono a fermare questa invasione facendo accordi con i paesi interessati. Allora? Allora la domanda che mi pongo è questa. In Italia né prete e né i militari si possono toccare. Neanche la Gabbanelli riesce a fare mai un servizio sui preti e sui militari. Vabbè, allora? Allora che ce l'abbiamo a fare tutti questi militari noi, generali, capitani, marescialli, sergenti? Cioè impieghiamoli sugli immigrati, dici tu, o liberiamo le caserme? Abbiamo decine e decine di caserme vuote, io ho fatto il militare. Si possono portare questi migranti nelle caserme, sottoposte a regole militari, la sveglia, la colazione, possono fare le loro preghiere. Vabbè, adesso non esageriamo, insomma, sì. Vabbè, no, come che mica li possiamo dare i maggiordomi, scusi? Io quando ho fatto il militare il letto me lo facevo da solo, le pulizie pure. Vabbè, nessuno dà i maggiordomi adesso agli immigrati. Le visite mediche. Vabbè, ho capito, le caserme, ho capito. Gianmarco, provincia di Padova, vai. Gianmarco, vai. Rila, ciao a tutti. Dimmi. Volevo unirmi al signore che ha appena parlato. Cioè, tu Cruciani, penso che sia una persona intelligente, no? Almeno, a parte che ogni tanto spacca un po' l'argomento. Però voglio dire, tu segui i discorsi di Salvini, Ludwig e anche Renzi, che cioè cosa facciamo? Facciamo i sabotaggi alle carrette? Beh, perché andiamo, no? Perché no? Servizi segreti per distruggere le navi, tipo sgonfiare le gomme alle macchine, cioè andiamo a bucherellare. Senti, Gianmarco, tu pensi che non possa funzionare? Altri pensano di sì, non è che tu sei la verità rivelata. Tu, dai. Non mi rispondi di dire allora accogliamoli tutti. No, io mi voglio dire. Non ti ho risposto così. Sì, no, ma io non vorrei perché tu spesso dici allora accogliamoli tutti, tu pensi questo. No, io non penso questo. Io penso che per una volta nella vita, almeno, questo paese vorrei che si comportasse in maniera seria. Allora, come con i campi rom, io vorrei che si comportasse un po' in maniera civile e in maniera seria. Allora bisognerebbe andare, secondo me, parlare, o meglio, avere dei governanti con le palle, andare lì a parlare con dei governi riconosciuti, non riconosciuti, farsi forte con l'Europa, perché noi diamo dei bei soldi all'Europa. Allora se no bisognerebbe, quelle persone che sono già qui, intanto bisognerebbe prendere magari, portare in certe caserme, che ci sono già, nelle caserme ci sono già dove ci sono degli ospedali, delle camere dove ci sono degli ospedali, dire scusi, dov'è che avete i parenti voi? Quei profughi, non i clandestini, quegli altri. No, ma io non ho capito una cosa, ragazzi. Mi fai parlare oppure no? Dimmi. Allora, perché sennò mi dice, guarda, non ti faccio parlare. Sì, ma stai allora, tranquillo, Gianmarco, dai, stai calmo. Ma io sono calmissimo. E allora, dai, forza. Allora, io ti dicevo, dove sono i parenti? Sì. Benissimo, sono, che ne so, in Germania, bene, contattiamo i parenti in Germania, se veramente esistono, fagli un foglio per fargli andare in Germania 3 mesi, 4 mesi, se trova un lavoro, bene, se no sarà la Germania che poi ci penserà, perché loro non vogliono stare qua, i profughi, vogliono andare in Germania, altri no. Comunque Gianmarco, guarda, va bene tutto, poi la gestione quotidiana, quello che è insopportabile è l'anarchia totale, cioè la gente che arriva, ma infatti tutti la gente che arriva alla stazione Termini, la gente oggi. Che arriva alla stazione Tiburtina, la gente che arriva alla stazione Centrale di Milano, la gente che arriva a Ventimiglio in treno. o si occupassero di questo. Io, e la mia ricetta delle cose è quella di un paese civile come l'Australia. No way, molto semplice. Ma il sono respingimento. Qua, adesso non è quello. Vabbè, quello il è tema. Un altro discorso. Una volta che sono ma arrivati. No, oggi non c'è nulla da sbraitare. No way. Vabbè, adesso hai ragione. Bombardare le navi. È arrivato lui. Non c'è nulla da sbraitare. No, c'è un problema. Ma quello va risolto. Che proposte ha la Lega per la gestione di quelli che sono qua? Io questo voglio. Se non ho sentito niente. Niente. Giuseppe di da Padova, roba. Vai, Giuseppe. Ciao Giuseppe, saluti Parenzo. Dimmi, dimmi. Io ritengo dobbiamo dare la giusta definizione a questo termine immigrazione. Sì. Che ha l'impressione che questa sia una vera e propria invasione di guerra attuata ed in corso da milioni di clandestini, parlo di clandestini, volutamente fatta passare come invasione pacifica da quella stucchevole componente politica cattolica, caritatevole e bonista. Similmente, come tutti i vincitori, noi sappiamo, di guerre anche del passato, oltre alla conquista del territorio, questi vincitori attuano il cosiddetto bottino di guerra. No, ma non ho capito, andiamo a spiegare che cosa vuole. Violenze ed anche uccisioni senza processi. Dunque? Poiché l'articolo 52 della nostra Costituzione stabilisce... La difesa della patria è il sacro dovere del cittadino. E allora? Ci domandiamo, il nostro Parlamento sta difendendo la nostra nazione da questa occupazione? Ah, come dunque, dovrebbe? Secondo te c'è un'invasione che è uguale di, a un'invasione di guerra? Un'invasione e io guerra. Cito delle cose concrete prese dalla nostra amata e Vangelo. Quindi ha usato il codice di guerra sostanzialmente. Esatto, dico, se ci dal momento esatto, che ecco, vedi, se fosse dunque un collegamento dal fatto che si può far passare come pacifica, in realtà è come un'invasione di guerra del passato. E dunque che bisogna fare con questi? E quindi ci domandiamo, il nostro Parlamento ci sta difendendo? Sta difendendo ma la lei si domanda, ma non ci. Aspetta. Ma io aspetto. Poi darai la risposta anche tu. Come dovrebbe invadere l'articolo? C'è l'articolo 78, caro Parenzo, so che tu sei contro anche la Costituzione. Questo articolo 78 dice... Le Camere deliberano lo stato di ripeto, nel passato era di guerra, è stato trasformato. Stato di guerra, e conferiscono al governo. Salga sul carro armato che arriviamo, vada, i poteri col carro armato. Vada con l'elmetto padano, sul carro armato, poi finito, arriviamo, caro poi Paese, arriviamo. Ho parlato di Costituzione, la conosci e quindi cerca di collegarla. Giuseppe, un altro Giuseppe, Avellino, vai, Giuseppe. Ora dei matti. Vai. Pronto? Sì, vai, Giuseppe, dimmi. Pronto? Dimmi. Giuseppe? Sì, dimmi però, amico mio, dai. Giuseppe, ti voglio dire soltanto, ma come fai a convivere con questo comunista di merda lì? Poi secondo luogo, l'Italia sta diventando il Nord Africa per colpa di questi comunisti, di quel cazzo del Papa, sta rompendo i coglioni pure il Papa. Ciao, grazie. Non ho capito, Giuseppe, hai detto tre volte merda in 10 secondi, comunista di merda, insulta merda di papa, eccetera. Fabio Udine, vai. Fabio. Ciao, Giuseppe, ascolta, io sono incazzatissimo, nero con Crocetta, presidente di una regione che è in ginocchio, in grave difficoltà. Io non voglio sentire una persona, io non sono omofobico, ma non voglio sentire un gay che parla dei gay che è al comando di una regione in gravissime difficoltà. Giuseppe, io se mi sono allontanato dai miei figli, cioè tu stai dicendo sei incazzato, stai tranquillo Fabio, non voglio un presidente che ragiona da gay. Ma qual è il problema? Fabio, aspetta che non sento un cazzo, aspetta Fabio, non ho capito qual è il problema che è gay, non ho capito. Allora, io non sono omofobico, attenzione, ma non ho capito qual è il problema che è gay. No, che è gay, il fatto che è perché ragiona da gay. Ma che vuol dire ragionare da gay, cretino? Che vuol dire? Che vuol dire ragionare da gay? Però mi spiego meglio. Allora, ma non ti spiego, non spieghi un cazzo perché dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani, dai, ciao. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene. Radio 24. La passione si sente.